su munti cercava aiuto, Madonna Santa tu per tu ruto, a cui imploramo ogni minuto, Madonna Santa tu per tu ruto. Su tassu manto